Buonasera, buonasera, benvenuti a questa puntata introduttiva dell'ottava stagione di Mighty FM. Chi vi parla sulle note di questa versione metal dell'Inno alla Gioia. L'abbiamo passate tutte, la versione di Arancia Meccanica, la versione folk, country, filippina e da ultimo anche l'anno scorso una versione Unz Unz Tamar, e adesso siamo passati alla versione metallica. Ma siamo qui per parlare del robot, come sempre, e l'inizio della stagione nuova vede la presentazione della rassegna di musica elettronica, ovvero dei percorsi digitali collegati alle nuove tecnologie, non necessariamente al dance floor, ma anche appunto alle performance audiovisuali, all'interazione appunto della creatività umana con le nuove tecnologie. E questa edizione, la nona edizione, dal claim ogni anno ce n'è uno diverso, un tema diverso, quest'anno è What Comes Next, dopo l'anno scorso, qui la edizione ottava Accelerate ha portato un po' il suo esito, ha portato ad un ridimensionamento dell'evento, poiché insomma i livelli anche degli spazi, dei nomi e anche delle spese, è un modello che si è rivelato non sostenibile, e quindi adesso siamo tornati ad una dimensione più piccola e più local. Infatti sono moltissimi, sono quasi tutti i nomi italiani che si esibiranno dal 5 all'8 ottobre negli spazi dell'ex ospedale dei Bastardini in via D'Azeglio, angolo via San Procolo, e per la festa di chiusura finale al Cassero, la Salara di via Don Minzoni 18, conosciamo benissimo. E già adesso in sottofondo stiamo ascoltando un pezzo del primo duo che aprirà le danze metaforicamente il mercoledì 5 nella main room appunto dei Bastardini dalle 19 alle 20, Evil Twin, Alberto Boni e Simone Antonioni, già presenti nella Call for Robot del 2015, dopo un EP All-In dell'anno scorso e uno quest'anno, Yesh, del 2016, si esibiranno per ben due volte. Ci sarà una replica sabato 8 nella backroom invece dei Bastardini alle 19, e per il loro Evil Twin live show. Adesso stiamo ascoltando la molto bella Introducing Sisypho. Come dicevo, da mercoledì 5 a sabato 8, ma ci sono delle altre cose che sono già iniziate, una in particolare dal 28-29 settembre alla Galleria di Acenza in vicolo Spirito Santo 1B, dietro Piazza dei Celestini, insomma sempre zona D'Azeglio, Santa Margherita, la mostra di Cinzia Campolese dal titolo Who, e contestualmente all'apertura del festival ci sarà anche, sarà appunto visibile dai Bastardini, anche una mostra fotografica che illustra insomma cosa è, che tutti i momenti che precedono l'entrata in scena di un musicista, di un DJ. E dopo, ne parleremo più tardi, e dopo gli Evil Twin cerchiamo di seguire un po' l'ordine cronologico delle esibizioni. Siamo nella main room, che è l'unica sala in attività il primo giorno. Dalle 20 alle 21 un duo bolognese un po' fuori dai coppi, ovvero i Volkwerk Folletto, Sinfonie per elettrodomestici, Andrea Rentini e Gianluca Patini più i visual dell'opificio Ciclope presenteranno una performance audiovisiva dal titolo Zauber Magia. Ricordiamo anche un live con la nostra amica Angela Baraldi. E adesso, non avendo trovato incisioni release diciamo originali, stiamo ascoltando una versione dal vivo di un loro pezzo che si chiama Gilera, quindi oltre agli aspirapolveri anche i motorini, direi, una versione live esibita a Guardassoni, che non saprei dov'è, nel 2011. Folkwerk Folletto. Dicevamo prima della mostra fotografica in esposizione all'ex ospedale Bastardini, Beyond the Noise, in collaborazione con Red Bull Academy. E poi uno degli eventi di punta sarà lo Sleep Concert, tutta una notte musicata fino all'alba da Rabih Behani, già sold out. E finisce Gilera, brano eseguito dal vivo da Folkwerk Folletto. Dalle 21 alle 22 Rabih Behani si esibirà ancora con Vincent Moon per un altro incontro sotto l'egida di Live Soundtrack, questo collettivo di musicisti e artisti di base a Barcellona, presente nel 2015 già a Robot con dei lavori molto belli eseguiti da Lena Villikens e Jaime Pantaleon, un live cinema show insieme al filmmaker Vincent Moon. Rabih Behani eseguiranno dalle 21 alle 22 e la prima serata, già così ricca di suggestioni, verrà conclusa con un set dalle 22 alle 23 ad opera di Hieroglyphic Being, questo essere geroglifico che è ispiratosi all'Egitto anche per il suo ultimo album, che si chiama The Discos of Imhotep. Questo pezzo si chiama Sepulchral Offerings e c'è un po' questo suono che appunto non è un problema del file che stiamo suonando, è proprio così, questo effetto qui, cassa sfondata. Lui è Jamal Moss, già fondatore dei Dirty Criminals di base a Chicago. We'll be right back. e sarà proprio dopo il set di Hieroglyphic Being, ovvero a 12:30 formalmente di giovedì 6 ottobre, che si svolgerà lo Sleep Concert di Rabi Behaini dal titolo The Repetition of Dreams. Solo per 50 spettatori mi sembra, quindi è andato subito sold out. Diamo delle informazioni, se magari in ascolto ci fossero alcuni dei 50 fortunati, si può entrare solo da 12:30 a 12:30 e non si potrà più entrare durante lo svolgimento del concerto fino all'alba. È possibile portare tappeti da campeggio e sacchi a pelo, ci dice il sito robotfestival.it, e si consiglia un abbigliamento comodo. Robot Festival, nona edizione, What Comes Next, all'insegna del reboot, ovvero del riavvio della macchina dopo, insomma, qualche incidente o qualche manovra che ha creato, ha messo in discussione, insomma, un po' compromesso la stabilità della struttura in una dimensione più local, più back to the roots, direi. E giovedì 6 si ricomincia, seconda giornata, quando le sale ai Bastardini in attività saranno due, la back room e la main room. Vogliamo citare il primo act in contemporanea, dalle 19 alle 21.30, Dewey Dell, il collettivo autarchico, sono loro musicisti, scenografi, coreografi, ballerini, che fanno tutto quello che serve per le loro performance, già presenti alla Call for Robot del 2014, che si esibiranno col bassista Massimo Pupillo per uno spettacolo, una performance dal titolo Seconda Trasmissione Verticale, anteprima del progetto Sleep Technique, che verrà invece presentato l'anno prossimo. Contemporaneamente parte anche la main room, ovviamente dalle 19 alle 20.30, un'ora e mezza per l'esibizione DJ set live, non so, dei Nas One, pupilli bolognesi. Come dicevo, questa dimensione più local privilegia l'esibizione di artisti italiani nella stragrande maggioranza dei casi, e anche nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di artisti che operano invece di base a Berlino, mentre niente, questi due Nas One sono di Bologna, Federico Natali e Francesco Terra, hanno pubblicato un EP nel 2015 dal titolo Habana Village, invece adesso ci stiamo ascoltando un pezzo tratto dall'ultimo EP dal titolo Band Sky di quest'anno, questo pezzo si chiama Sparisci. Un'altra performance installazione che accompagnerà tutto l'evento e tutta la sua durata dal 5 all'8 ottobre all'ex ospedale dei Bastardini è quella dal titolo The Enlightenment, già presentata a Robot 07, ovvero nel 2014, dai Quiet Ensemble, che l'anno scorso sono stati anche l'anno scorso 2015 a Spring Attitude a Roma. Quiet Ensemble, Fabio Di Salvo, Berdando Vercelli, per un'installazione caratterizzata da 96 lampade. E loro sono anche esperti, infatti, come hanno fatto l'anno scorso, nel applicare elettrodi a frutta e verdura e registrare, tirarne fuori i suoni che sono capaci di fornire queste sostanze invece naturali. Un suono inconfondibile per quanto riguarda l'identificazione, l'individuazione della sua origine geografica dopo Nas One Main Room di giovedì 6, dalle 20.30 alle 21.30 si esibiranno The Dwarves of East Agusa, i nani di Agusa Est, gruppo formato da Maurice Luca, egiziano, Sam Shalabi, egiziano-canadese, e Alan Bishop, americano però di origine libanese. Noi, come sempre, qui a Maite FM cerchiamo di far ascoltare le ultimissime produzioni e infatti nel 2016 hanno pubblicato un album dal titolo Bess. Da cui ci stiamo ascoltando Where's Turbo? Non so se è un riferimento alla lumaca dell'omonimo cartone Disney o Pixar, ma comunque ce ne ascolteremo solo un quarto, perché ovviamente tutti i pezzi sono purtroppo editati, ma come sempre pensiamo che sia sufficiente un ascolto di circa 4 minuti per dare un'idea della musica creata da ogni artista o gruppo. Noi abbiamo questa tendenza massimalista di parlare di tutto, far sentire tutto. Il pezzo in questione, quello che abbiamo deciso di far sentire, durava 16 minuti, quindi per forza di cose l'abbiamo fatto in 4. Dicevamo di come Robot abbia sempre inseguito le più suggestive novità per quanto riguarda l'intersezione tra suono elettronico, tendenzialmente digitale si penserebbe, mentre quest'anno c'è una presenza massiccia invece dell'amore per l'analogico. E in questa interazione con i video, la presenza, anche la presenza di queste lavori che vedono video e musica è notevole in questa edizione, come quello che abbiamo già nominato, i Voltwin, ma anche la Mostecinza Campolese, ma anche il lavoro con Vincent Moon di Rabi Beani, tutti, molti degli show, degli acts, come si dice, presenti a Robot, hanno una componente audio-visual, partendo appunto dai già menzionati i Voltwin. E adesso, seguendo la programmazione tra Backroom e Main Room, dopo i Dwarves of East Agusa nella Main Room ci sarà un ritorno, un appuntamento classico con il robot, ovvero la presenza di Memory Man, aka Uovo, anche conosciuto come Uovo. Questa specifica, di solito presente nel suo nome d'arte, quest'anno è stata tralasciata, quindi Memory Man e basta, da Bologna, anche lui Cristiano Rinaldi, dalle 21.30 alle 23, come dicevamo, sempre presente. Ma torniamo nella backroom. Siamo arrivati alla programmazione 21.30, 22, anzi 23, anzi sì, beh, solo mezz'ora sarebbe, insomma, un po' poco per un nome molto atteso, almeno da me, perché si sa che nella musica, almeno alternativa o anche elettronica, i nomi femminili sono sempre pochi, ma a Robot va il merito di averne sempre dato degna rappresentanza ai livelli più alti. E uno dei nomi femminili presenti in questa rassegna sarà quello di Peggy Goo, giovane donna proveniente da Seoul, che poi per migliorarne il rendimento scolastico i genitori pensarono bene a 14 anni di mandarla a Londra, dove lei si è persa nella musica e poi si è trasferita a Berlino. Ha pubblicato 3 EP, i primi e tutti in quest'anno, il 2016, Art of War, poi non so se in mezzo intercalato un 12 pollici con 2 pezzi, Day Without Yesterday e 606, molto molto bella, avevo il dubbio se mettere, se metterla per farla ascoltare, e invece la scelta è ricaduta sul pezzo che stiamo ascoltando, che si chiama Went Round They Go, tratto da The Art of War Part 2, questi 3 EP tutti pubblicati nel 2016 da Peggy Goo. Anche questo non so se è vero o non è vero, abbiamo sempre parlato della stilizzazione grafica dei nomi, in quanto siamo abituati ormai a passare la maggior parte del tempo davanti a un terminale, un video, uno schermo di un telefono, di un computer, e quindi di immagazzinare un'informazione leggendo, vedendo lettere e segni. In questo caso Go l'ho trovato scritto in maiuscolo, che fa molto Peggy Guggenheim anche, fa molto gradevole questo pezzo, When Round They Go, tratto da The Art of War Part 2. E sarà lei a chiudere la seconda serata nella backroom, mentre la prima serata abbiamo detto ci sarà Memory Man, che di solito aizza le folle in modo incredibile. E passiamo a venerdì 7, siamo ancora nella unica location, come si dice, insomma, del programma principale, insomma quello più corposo, come negli anni scorsi era stato Palazzo Renzo, Palazzo Renzo che però è stato sfruttato tra virgolette per i due incontri preparatori a settembre, Robot Path, prima dell'edizione vera e propria del festival. Si affiancavano altre sedi nelle nottate del weekend, in questo caso sarà solo il Cassero sabato notte per la festa di chiusura. Come dicevo, si riparte da venerdì 7 alle 19, partiamo dalla backroom con un collettivo, anche questo super bolognese, nato negli anni 90 al Link di via Fioravanti, poi trasformatosi nei Votiva Lux e ora hanno assunto il nome di Verotica. Cortesemente mi hanno mandato 3 pezzi tra cui scegliere, e io ho scelto sempre una versione parziale editata, questo pezzo che si chiama A4-1 TRK, ovvero track 1 excerpt 06-03. Si sono esibiti anche tempo fa al Loft del Chinodromo, si può trovare online su YouTube una versione di video di quelle 360 gradi che puoi appunto esplorare trascinando e spostare i punti di vista. Verotica. un'esperienza totalmente immersiva quella dell'ascolto di questi pezzi dei Verotica contemporaneamente, e purtroppo si dovrà scegliere oppure fare un po' e un po'. La performance dei Verotica dura 1 ora e mezza e alla stessa ora, però durata di 1 ora, dalle 19 alle 20 nella main room, presente ovvero Gianmarco, Facebook dice Gianmarco Oscari Lapplainen, faccia conosciutissima qui a Bologna, che insieme ad Andrea Masciadri anche in questo caso farà una performance audio-video ispirata a Gibson Sterling, a tutta la scena del cyberpunk che noi tanto amiamo. E la colonna sonora appunto sarà fornita da Presente, questo progetto, anche questo bolognese. Stiamo ascoltando un pezzo tratto dall'ultimo singolo pubblicato quest'anno, si tratta di 2 tracce, Vuota Beatitudine e Oggetto. Questa è Vuota Beatitudine, Presente, anche questo tutto maiuscolo. Performance video ispirata a vecchie immagini, vecchi film come Doom, appunto ispirate a Neuromante di Gibson, tutte immagini che fanno riferimento alla realtà virtuale, che quando se ne parlava allora sembrava una gran figata, proprio la rappresentazione del futuro. E poi forse un po' le aspettative sono state deluse, o forse come spazio 1999 è meglio inventarsele in un'epoca in cui ancora non si possono verificare poi le potenzialità delle cose, quando l'immaginazione viaggia un po' di più. E sempre all'insegna dell'interazione audio-video, particolarmente felice nel caso di certo tipo di musica, dopo Presente nella main room si esibiranno i Lumisokea, non saprei come pronunciarlo, lo leggo così come lo vedo scritto, dalle 20 alle 21. Un duo, l'italiano Andrea Taeggi e il belga Konrad Ecker, hanno fatto un lavoro tra performance audio-video con il musicista tedesco Legoman, già presente a Robot nel 2014. L'ultima loro pubblicazione si chiama Transmissions from Reversavr, da cui ci stiamo ascoltando Generation ZZ. E finisce così anche il pezzo dei Lumisokea. Insomma, il duo italo-belga che si esibirà. Siamo arrivati a venerdì verso l'ora di cena. E tornando nella backroom, dopo i Verotica, ci sarà una esibizione di mezz'ora di Nicola Ratti, una performance elettroacustica. Leggiamo sul sito, dove potrete trovare tutte le informazioni su i vari artisti, ma anche informazioni pratiche, come per esempio il tesseramento, l'associazione Shape, che da sempre organizza il Robot Festival alla cifra simbolica di un euro. Per entrare ai Bastardini ci si deve tesserare, e c'è il form online, vi arriverà velocemente, molto velocemente, l'ho fatto io ieri, una mail di conferma e le istruzioni per ritirare la tessera in via San Procolo, perché poi sì, i Bastardini si sviluppano soprattutto in lunghezza su via D'Azeglio, ma poi soprattutto nelle ultime attività che hanno ospitato feste, serate, aperitivi, eccetera, l'ingresso è da via San Procolo. Stiamo parlando di via D'Azeglio, la parte ultima verso i viali, verso Porta, poco dopo l'incrocio con via Urbana. Dicevamo, Nicola Ratti e la sua elettroacustica, il più delle volte confinate in studio di registrazione o in sala prove, oppure come saggi, visto che appunto è una disciplina da conservatorio. Adesso che il conservatorio contempla anche lo studio e l'esecuzione della musica elettronica, portata in una sala, portata davanti ad un pubblico, dove Nicola Ratti riesce a mantenere viva l'attenzione del pubblico fino alla fine, e riesce anche a fare dei dischi come quello che stiamo ascoltando, anche questo di quest'anno, Pressure Loss, perdita di pressione. Questo pezzo si chiama W12, ovvero W12. Elettroacustica, quasi un ossimoro. E finisce il pezzo di Nicola Ratti, ovvero Sfuma, ovvero l'abbiamo tagliato come un po' tutti quanti. E a seguire, dopo la performance di mezz'ora di Nicola Ratti, un'ora di Petit Singe, ovvero piccola scimmietta, scimmiotta, al secolo Asina Francia, producer romagnola ma di origine indiana, che si è fatta conoscere soprattutto nel 2014 con un pezzo, Tregua, che stiamo ascoltando, in cui comunque la forma della, non dico della canzone, ma del pezzo, la struttura del pezzo è abbastanza classica e riconoscibile, mentre il suo ultimissimo lavoro del 2016, sì è vero, per una volta abbiamo privilegiato qualcosa di più facile ascolto e più vecchia e non la produzione più attuale. Dicevo, quest'anno ho pubblicato un altro EP, Something Went Wrong, qualcosa è andato storto, qualcosa è andato male. Sono dei pezzi molto molto lunghi, strumentali, rarefatti, dove la strumentazione è soprattutto composta da percussioni tradizionalmente indiane come la tabla, però senza un pattern ritmico definito non riesci ad individuare un ritmo, una ripetizione, come per esempio in questa tregua. Tra l'altro domani Petit Saint-Jean si esibirà a Milano invece in un'altra situazione, diciamo dei cugini piemontesi del robot, ovvero Club to Club, che già anticipiamo si svolgerà dal 2 al 5 novembre a Torino. E come preview della 16ª edizione di Club to Club, domani a Milano ci sarà la Boiler Room, la illustre Boiler Room, che è un po' appunto in tutte le città del mondo, sono dei set che vengono ripresi in ambienti, direbbe il nome, suggerirebbe il nome, molto molto caldi, dove il DJ praticamente in mezzo alla gente, circondato dal pubblico. E domani insieme a Petit Saint-Jean ci saranno i Ninos do Brasil, They've Saved and Not Waving. Visto e ascoltato tante tante volte Alessio Natalizia, per non parlare dei Ninos do Brasil, Ninos e non Ninos. Ma la scimmiotta finisce con questa tregua. E ritorniamo alla main room, quando nello stesso slot di tempo, dalle 21 alle 22, si esibirà l'irlandese del nord, Belfast, Jack Hamill. Ecco, questo effetto non è il file danneggiato, è così. Il nome del progetto è Space Dimension Controller, il suo alter ego è Mr. 8040. La scheda informativa sul sito robotfestival.it dice è il 2016, ma potrebbe anche essere il 3257, poiché appunto i viaggi musicali di questo Mister 8040 sono appunto i viaggi cosmici in universi paralleli. Lui una pubblicazione del 2016, Orange Melamine, in cui ci stiamo ascoltando The Bad People, il cui video ufficiale potete trovare nella scheda a lui dedicata sul sito, che nella stragrande maggioranza dei casi contiene embedded, ovvero incastrati, incasellati nella pagina dei video, e comunque tutti i link di interesse, insomma dei social dove si possono o no o meno, le piattaforme musicali dove si possono ascoltare e o vedere i lavori degli artisti, che sia Spotify o SoundCloud o Facebook o proprio il sito degli artisti. Thank you. The Bad People, Brutta Gente, Space Dimension Controller, Alter Ego di Mr. 8040 o viceversa. Dopo di lui, alle 22 di venerdì 7 all'ex ospedale dei Bastardini, ovvero dove si accoglievano i figli bastardi abbandonati, rifiutati, orfanelli, uno spazio bellissimo veramente da sfruttare. Io mi ricordo da anni di vedere, di aver visto, chissà se c'è ancora, uno striscione che diceva che è in vendita, magari avere i mezzi per acquisirlo, ma adesso fortunatamente sta venendo usato, sfruttato nel bene da diverse realtà. Appunto, da ultimo è approdato anche Robot, primi tra tutti Fruit, ovvero il festival delle pubblicazioni d'arte, delle fanzine, dell'autoproduzione legate comunque alla grafica e all'arte. E anche gli eventi degli ultimi mesi sono stati gestiti dal gruppo Crudo, che organizza Fruit, e anche delle serate estemporanee della nostra roboterie, le nostre serate danzerecce bolognesi, cioè bolognesi quando vengono a farla a Bologna, perché sono comunque in tutta Italia. Ma siamo passati appunto alle 22, sempre nella main room si esibirà Route 8, al secolo Gergely o Gergely, Horvat da Budapest, giovane occhialuto carino che nel 2016 ha pubblicato un EP, un 12 pollici, doppia traccia, Floating Dub e Dance With You, e ci stiamo appunto ascoltando Floating Dub, Route 8. Floating Dub, un dub galleggiante, Route 8 di Budapest ungherese, che chiuderà la programmazione della main room. Il venerdì sera non c'è un post, c'è un post nottata, sempre insomma all'insegna di questo reboot, di questo ridimensionamento, dopo una pausa di riflessione che è stata comunque la pausa fisiologica tra un'edizione e un'altra, perché il robot non si è fermato, non ha gettato la spugna dopo una battuta d'arresto. Insomma, quegli effetti insomma si risentiranno anche per un po'. Noi abbiamo anche lavorato l'anno scorso, noi, io, me, myself and I, abbiamo lavorato anche l'anno scorso come autisti, abbiamo avuto la possibilità di conoscere o riconoscere, rivedere tanti artisti. È stato molto divertente ma anche molto stancante, e alla stessa ora delle 22 dopo Route 8, cioè contemporaneamente a Route 8, però nella back room un'altra presenza femminile di peso, di livello, la londinese Beatrice Dillon. Il legame tra la galleria d'arte e il dance floor, lei è compositrice, produttrice, DJ senza confini, dall'ambient alla world music. L'ultimo suo lavoro è uno split 12 pollici, ovvero un pezzo a testa insieme a Karen Guayer, americana, anche lei compositrice. Il pezzo che stiamo ascoltando è Curl, quello di Beatrice Dillon, mentre quello di Karen Guayer è Common Soundproofing Myth. Piacevole questo riccio curl di Beatrice Dillon, che chiuderà la serata nella backroom dei Bastardini venerdì sera, quindi immagino che sarà una cosa... No, in realtà no, non ho gli strumenti, gli elementi per dirlo, e anche se ce l'avessi poi tutto potrebbe rivelarsi assolutamente imprevedibile. Chissà quale sarà il set più danzereccio e più mosso e quale invece quello più sperimentale. Così mi verrebbe da dire quello di Beatrice Dillon, ma appunto non si sa mai. Di donne super creative negli ultimi anni, robot e altre manifestazioni simili, già citate, springate, to club to club, ne abbiamo viste diverse dalla già nominata Lena Villikens, la nostra cara Holly Herndon, e in questa edizione ce ne sono quattro nomi di un certo peso. Come dicevo, i Evil Twin faranno la replica, credo, dello stesso spettacolo, Evil Twin Live Show, riaprendo la programmazione di sabato 8 nella backroom alle 19, e ci ascoltiamo l'ultimo pezzo dell'EP da cui abbiamo già ascoltato il pezzo prima, ovvero Yesh di quest'anno. Questo pezzo si chiama Man Machine Macherie, molto breve. E loro iniziano alle 7 nella backroom, perché alle 6 nella main room c'è, direi purtroppo, perché era una delle cose che mi piacevano di più, ma vabbè, aumenteranno nel tempo quando insomma si risistemerà la situazione. Mi piacevano di più le proiezioni, non solo di video arte, ma anche appunto di documentari di tema musicale o di film di tema musicale. Ricordiamo quelli sui LCD Sound System, sui Mod Selector, e uno di questi film, Raving Iran, è quello che verrà proiettato nella main room alle 18, un film documentario della regista tedesca Susanne Regina Moires. Nella scheda sul sito non c'era il nome della regista, sono andato a pescarli in rete. che era già stato presentato in una serata di curatela collaborativa con il robot al Biografilm Festival. E quindi sulla scena, come si può intuire, sulla scena della musica elettronica in Iran, tra divieti, repressione e voglia invece di musica e di techno. Come questa che ci ha regalato Paolo Iocca nelle sue innumerevoli ricreazioni, riformazioni. Ci conosciamo da quasi 20 anni, dai tempi di Franklin Delano, poi Black EEE, poi il passaggio all'elettronica come Boxer de Coeur, poi come Spireo Spire, come fondatore della Random Numbers insieme a White Raven e BXP. E adesso finalmente l'assunzione, l'abbraccio del proprio nome, della propria identità, Paolo Iocca, e anche la fondazione della sua propria etichetta, la RA1. A parte molto successo ultimamente anche il suo remix di Stormy, Dio sono un cane, che verrà anche eseguito dal vivo, così mi ha detto. Ma soprattutto a fine mese uscirà la sua prima release a nome Paolo Iocca della sua etichetta, ovvero due tracce dal titolo Xing e A-Side, la B-Side Bass Heads, che è questa che stiamo ascoltando, cortesemente concessami per questa trasmissione dall'amico, caro amico Paolo. Ciao Paolo! Heads, Beside Dick Sing, nuova pubblicazione a nome Paolo Iocca, in anteprima esclusiva mondiale, no, non lo so, comunque in anteprima sicuramente rispetto alla data ufficiale d'uscita, che mi pare sarà il 28 ottobre. State con le orecchie tese, ma lo vedremo esibirsi nella nostra città. Me lo immagino, insomma, come sempre, lui c'è sempre stato. Insomma, questa programmazione del sabato spinge, Paolo Iocca dalle 20 alle 21 nella backroom dopo la replica degli Evil Twin, mentre nella main room alla fine del film documentario Raving Iran ci sarà il DJ set, il funky DJ set dei fratelli Gino e Federico, The Grasso Brothers. Mentre per seguire l'onda nella backroom dopo Paolo ci sarà Inner Lakes, italiano, immagino, non so il nome, viste le amicizie Sospette con Marco Shuttle e Chevelle, entrambi ospiti di Robot 2015. Inner Lakes, Laghi Interiori. Stiamo ascoltando un estratto di quasi 4 minuti da invece un mix che dura più di un'ora e che è la sua ultima pubblicazione su SoundCloud. Il titolo Inner Lakes 01 Vinyl Rip Scan Disc Mix, ovvero Inner Lakes senza un po' di vocali, tutto scritto attaccato tutto maiuscolo, Oct 2016, quindi nuovo. Continuando a parlare delle informazioni che si possono trovare sul sito robotfestival.it, una cosa che interessa molto a tutti è la questione degli ingressi. Oltre al tesseramento, l'abbiamo detto, ci sono i biglietti d'ingresso per i bastardini per il primo giorno 8 euro, secondo giorno 10 euro. Terzo giorno 12 euro, quarto giorno 12 euro, mi sembra un prezzo assolutamente accessibile ed onesto. Lo Sleep Concert era 10, abbiamo detto sold out per 50 fortunati, e poi una cosa molto conveniente, il Day Pass, ovvero l'ingresso garantito ai bastardini dal 5 all'8 ottobre, escluso appunto lo Sleep Concert, a un prezzo finale di 32 euro, quindi molto conveniente. Mentre poi la serata conclusiva, la festa al Cassero, il sabato notte, quando sarà, no, inizia di sabato, poi finisce all'alba della domenica, sarà un ingresso a 15 euro, ridotto a 10 entro l'una e mezza, e si ricorda che comunque l'ingresso al Cassero è sempre riservato ai soci arci. Infatti il sito dice riservato ai soci arci gay, lesbica, in realtà dovrebbe essere a tutti i soci arci di qualsiasi tipo. E finisce l'estratto di Inner Lakes 01 Vinyl Rip Scan Disc Mix ottobre 2016, e passiamo a un talento della musica afro, soul, jazz, che si sta facendo conoscere molto bene al di là dei confini italiani, ovvero Mop al secolo Andrea Benini. Anche Mop ha pubblicato un disco quest'anno dal titolo Lunar Love, e lui invece si esibirà dopo il funky DJ set dei Grasso Brothers nella Main Room, accompagnato da Wayne Snow, cantante nero di base a Berlino, presente anche come voce in uno dei pezzi dell'album. E il pezzo di Lunar Love che abbiamo scelto di far ascoltare è Adhara. Benini insieme a Wayne Snow. Alle 21 di sabato sera nella main room dei Bastardini, quindi diciamo insomma il piatto forte della serata, a cui seguirà un altro nome italiano che si fa conoscere nel mondo del dance floor, l'alfiere del suono italo del terzo millennio, fin dall'inizio del terzo millennio, con i Club Rules, col progetto Telespazio, ovvero Fabrizio Mammarella, una collaborazione con Rodion. E anche nel 2015, ultima pubblicazione per un EP, Monteverita. Abbiamo trovato un pezzo di questo EP, Inner Outer, però ci convinceva molto di più un remix di Mammarella fatto per sempre per Rodion, quindi insomma dai, diciamo non è proprio la stessa cosa come una composizione insieme, però ci sarà farina del sacco di tutte e due. Ci piace molto perché è un pezzo che noi mettiamo nei nostri DJ set, Bococa Hills, remixato appunto da Fabrizio Mammarella. Definizione che ho trovato su SoundCloud della musica che fanno Rodion e Mammarella insieme è Strange Hybrid Slow Burning Electronic Disco, e questo ne è un esempio. Infatti io la velocizzo un pochettino. Bococa Hills, Rodion remixato da Mammarella, che finisce il pre-serata in questo caso del sabato sera ai Bastardini nella main room 22, 23 e 30. Invece alle 22:30, alle 23:30 nella backroom ci sarà appunto il quarto nome femminile di peso, ovvero Aurora Halal, nata a Washington, adesso super attiva a New York, ovvero a Brooklyn, dove organizza questi party che si chiamano Mutual Dreaming, ovvero un sognare reciproco. L'ultima produzione di quest'anno insieme a Ital è un EP che si chiama Tower B, ma noi siamo rimaste folgorate dalla sunlight, dalla luce solare contenuto questo pezzo nell'EP del 2015 dal titolo Shapeshifter, e questa è Sunlight. Aurora Halal, come dice la scheda su robotfestival.it, a leggere la programmazione della serie di party Mutual Dreaming, è roba che capiremo forse tra decenni, è anche corresponsabile del festival Sustain Release, 3 giorni di musica non stop in un ambiente favorevole all'abbattimento di muri mentali, un lago, capannoni, vasche idromassaggio. E questo pezzo è Sunlight, tratto da Shapeshifter, non a caso, muta forma come Odo di Star Trek del 2015. E con lei Fabrizio Mammarella finisce la programmazione in toto presso l'ex ospedale di Bastardini, via San Procolo, via D'Azeglio, e ci si sposta per il party di chiusura che in realtà parte dalle 23 al Cassero, dove apriranno le danze per 2 ore, primo slot dalle 11 all'1. Anche questo un duo assolutamente nostrano, bolognese, hip hop e house, DJ Pista e DJ Dumbo Beat, la loro etichetta Pista Records, insieme suonano col nome di Nudge. Hanno pubblicato nel 2015 ben 5 EP, volume 1, 2, 3, 4, 5, tutti dal titolo Costruzione, e adesso nel 2016 stanno uscendo i primi volumi di Distruzione. E tratto da Costruzione volume numero 3, ascoltiamo No Pursuit. come abbiamo scritto in un articolo di presentazione della rassegna qualche giorno fa, la vicenda di Robot 2015, insomma, ha creato un caso nella nostra Bologna, che appunto in molti casi si dimostra poi la città molto provinciale che è. Io ho un atteggiamento un po' ambivalente riguardo alla questione, perché mi ha toccato abbastanza da vicino, ma mi rendo benissimo conto che se non si rischia, non si rischia neanche di cadere, e che volendo fare un salto di qualità, sempre comunque facendo ricerca, perché non dimentichiamo, la programmazione di Palazzo Renzo è sempre stata, insomma, non dico ostica, però insomma molto molto profonda e attenta alle cose più sperimentali, soprattutto attraverso la Call for Robot, e poi ovviamente per aumentare le entrate si chiamano i grossissimi nomi, ma si corrono anche dei rischi, si fanno forse anche degli sbagli, ma l'importante appunto è non fermarsi, non darla vinta in una certa misura a chi ti vuole male. Come dicevo, io sono in una posizione abbastanza, insomma, capisco un po' tutte e due le campane, quello un po' di testa e quello un po' di pancia. Però appunto ho apprezzato personalmente che non si sia rinunciata ad andare avanti e rifare una edizione successiva quando era dovuta, un anno dopo, come fanno tutti gli altri eventi, e anche una certa umiltà nel presentare questo concetto di reboot, di insomma ripartire un po' da zero con un nuovo inizio. E come abbiamo appunto citato questa metafora del reboot, come viene usata anche nei prodotti di entertainment televisivo cinematografico, gli attori sono gli stessi, però magari le storie, le trame, i contesti sono diversi. E what comes next, cosa verrà dopo, ce lo diranno, ce lo faranno sentire anche gli artisti, molti dei quali sono quelli che faranno il botto. E tu potrai dire, se ci sei stato, io li ho sentiti a Robot prima che facessero il botto, quando ancora non li conosceva nessuno. E il botto l'anno scorso nella Sala degli Atti l'hanno fatta i Primitive Art, un progetto milanese, fondamentalmente un duo, Jim Ned e Matteo Pitt, avevano fatto un set veramente incandescente, ritornano come secondi ad esibirsi al Cassero dall'1 alle 2, Primitive Art. Pubblicazioni, abbiamo trovato solo un EP, quattro pezzi, solo abbiamo trovato un EP, quattro pezzi, il titolo Problems del 2013, di cui ci ascoltiamo la title track Problems. Problems, Primitive Art, i secondi ad esibirsi nello slot che va dall'una alle due, minuto più, minuto meno, per una serata di party conclusivo di questa nona edizione del Robot Festival, che inizia alle 23 presso il Cassero La Salara di via Don Minzoni 18. Dopodiché arriverà un peso massimo della scena Tecno Carogna. Ovvero DJ Stingray 313, a volte questo 313 c'è e non c'è. DJ bellicoso, terrorista, non a caso si esibisce in passamontagna. Al secolo Sherard Ingram, già fondatore del collettivo Techno Drexilla. Nel 2016 ha pubblicato un lavoro NU 1000 in collaborazione con Galaxian, ma noi invece dall'anno prima, ovvero dall'EP Cognition del 2015, ci ascoltiamo questa... Ops, anche questa è una sigla. ERB84. ERBB4, maiuscole e minuscole. Detroit State of Mind. Nessun compromesso, nessuna esitazione, nessun ripensamento. Il segmento più radicale dell'intero Robot 09. Partendo dal nome, la Stingray è un pesce, metà squalo, metà razza. Forse ho scelto anche un pezzo buonino rispetto a quello che ha fatto e minaccia di fare nella parte centrale della nottata del Cassero, ovvero dalle 2 alle 4. E finisce questa ERBB4, comunque si dica, DJ Stingray, tratta dall'EP del 2015 Cognition, e a finire la serata dalle 4 alle 6, quando ci si sfoga, ci si libera come è successo sabato scorso nella serata In Nome del Pop Italiano, quando noi stesse, Me, Myself and I, con la musica delle Poppen, una serata basata solo su musica italiana, pop italiana di ogni epoca, ci siamo, dicevamo andiamo, e invece abbiamo fatto chiusura. E saranno moltissime, spero, le persone che faranno chiusura al Castro dalle 4 alle 6 in compagnia dei poliziotti dell'analogico, ovvero di Analog Cops, e anche loro, due cervelli, due mani, due anime emigrate dall'Italia per fare musica a Berlino, Alberto Marini e Domenico Cipriani, ovvero Mario e Lucrezio. Nel 2007 hanno fondato l'etichetta Restoration, Chicago House più Detroit Techno uguale paradiso berlinese. Sono un duo, operano come un duo, ma nelle pubblicazioni che ho visto le tracce sono a firma individuale, 2-3 ne fa uno, 2-3 ne fa un altro, e di questa ultima pubblicazione che abbiamo scelto, poi l'ultimissima, 2016, ovvero l'EP Let the Game Begin, abbiamo scelto un pezzo di Lucrezio dal titolo Family Boy. Finisce, dopo aver fatto veramente un excursus pressoché totale degli artisti che si esibiranno questa nona edizione del Robot Festival Bologna 5-8 ottobre 2016, la settimana entrante, ovvero da domani, come sempre episodio introduttivo, interlocutorio delle nuove stagioni di Mighty FM, che non si sa come, quando, come continueranno. La cosa più importante è che abbiamo trovato la nuova sigla, ovvero l'Inno alla Gioia, versione metalla. Ma ci salutiamo con le ultime note di questa Family Boy a firma Lucrezio, ovvero metà degli Analog Cops, come ultima act della festa conclusiva del Robot Festival sabato notte, ovvero domenica mattina al Cassero. Buon ascolto su Radio Kairos. Ciao da Claudia Mighty Mouse.